Un rilancio che passa anche dal tempo libero e dallo sport, per mettersi alle spalle nel più spensierato dei modi l'incubo del terremoto. È con questo spirito che al SAIE di Bologna ha fatto la sua comparsa SAIE Sport and Technologies, nuovo salone tematico dedicato appunto alle strutture sportive, patrocinato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Perché tra le tante risorse da ricostruire e preservare nelle aree colpite dal sisma, ci sono anche i campi da gioco. Antonio Armeni, presidente della divisione impianti sportivi della Lega Dilettanti. Il nostro presidente Tavecchio ha avuto modo di mettere a disposizione una determinata cifra per aiutare la ricostruzione di alcuni campi, ma anche in altri modi, al di fuori dell'aspetto della parte economica, quindi dei quattrini che servono per fare questo, ci sono anche ulteriori e diversi aiuti che possono servire. Il mondo del calcio, professionistico e non, che già si era stretto in un abbraccio non solo ideale alla popolazione vittima del terremoto, ha trovato dunque un altro modo per dare un aiuto alle comunità, mettendo le sue conoscenze a disposizione di tutti per un domani più luminoso. Fabio Pisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.